Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre alcune rapide informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. Potrete visitarlo, scaricare via podcast le puntate, ad esempio quelle della mia trasmissione. Andiamo in orario abbastanza mattutino, ma è possibile ascoltarla quando la si vuole, pressoché in tempo reale. Quindi quando volete, e potete dialogare con me nel mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate o sull'home page del Sole o appunto sul sito di Radio 24. Seconda informazione di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Mail che è stata raggiunta da un nostro radioascoltatore romano, Roberto Montefusco, che guarda caso proprio nel periodo in cui una serie di persone, una collettività possiamo così dire, si è rivolta al capitano della Roma Francesco Totti affinché intervenisse nei confronti dello sponsor Vodafone e comunque nei confronti dell'impresa di cui lui è testimonial, per cercare di attutire un po' quelli che sono, erano meglio, gli effetti di una antenna per telefonia mobile, guarda caso proprio in quei giorni un'altra mail ci è giunta tra le tantissime che vengono indirizzate alle compagnie telefoniche appunto da questo radioascoltatore che lamentava e lamenta qualcosa di simile, che è comune a migliaia di cittadini. Voi sapete che l'abbiamo più di una volta affrontato il tema, di tanto in tanto quando poi si accumulano un po' di mail ne pesco una dal mazzo e ci mettiamo una e ci imbastiamo una puntata. Allora, qual è il problema di Montefusco comune a migliaia di cittadini? Proprio il, come dire, il rapporto difficile, difficilissimo che si hanno con le antenne, in questo caso le antenne della Vodafone di dimensioni mostruose, dice testualmente nella sua lettera. Per parlarne io do il buongiorno appunto a Roberto Montefusco. Buongiorno. Buongiorno, dottor Galullo. E do il buongiorno, ringraziandolo per la presenza, al dottor Alessandro Dadalt, che è responsabile rete di Vodafone Italia per le regioni Lazio e Sardegna. Buongiorno Dadalt. Buongiorno dottor Galullo. Allora, io direi di partire con l'enunciazione del problema, diciamo così, lo diciamo in maniera molto molto semplice, in maniera tale che tutti possano capire. Allora, Montefusco, qual è stato l'impatto e il contenzioso che voi avete in atto con Vodafone? Allora, noi inizialmente c'è un contratto con l'Impadap che risale al 13-12-95 e mio padre poi ha acquistato questo attico, questo appartamento nel 2002 perché era diciamo inquilino, poi è diventato condomino. Quindi sul terrazzo dell'attico di suo padre, mi scusi se parto proprio dall'inizio, ci sono dei ripetitori, comunque delle antenne Vodafone che sono lì dal 1995. 95. Sono benissimo. Tre mostri, guardi, mi creda, a noi qualsiasi amico o parente che viene ci danno che siamo dei pazzi. Una cosa assurda, io sto andando, guardi, veramente sono arrivato io, non posso più campare io con queste antenne. Va bene, comunque ecco, nel 95 queste antenne, voi acquistate questo attico nel 2002, ovviamente le antenne sono ancora lì, ma regolarmente disciplinate, mi pare aver capito, con un contratto che però è scaduto. Certo, sì, delle antenne? Sì. Sì, sì, no, le antenne scadeva il contratto a dicembre 2007. Noi abbiamo fatto una lettera il 28-2-2004, inviata lettera di disdetta del suddetto contratto alla Vodafone, scaduto il 31-12-2007. Quindi l'avete mandata questa lettera, certo. Immagino come amministrazione di condominio, suppongo, non so, o voi la vostra famiglia personalmente. No, l'amministratore, parliamo di condominio. Benissimo, l'amministratore l'ha mandato tempo prima, un tempo giusto dal punto di vista, diciamo così. 28-2, dottor Galullo, 2004. Va bene. Allora, a questo punto voi vi continuate a trovare, voi personalmente nel vostro attico, e l'intero condominio si trova queste antenne che lei definisce mostruose. E Vodafone quale rapporto ha avuto con voi? Le mando le foto poi io. Va bene. Sì, no, questo qui è d'accordissimo, ma voglio dire, ma Vodafone voi l'avete cercata, avete avuto un'interlocuzione? Sì, abbiamo cercato ultimamente un signore, mi ha detto, dice guardi, la sua pratica sta all'ufficio legale. Oh. E questo non so spiegarmi il perché. Va bene, allora, quindi siamo in questa condizione, cari radioascoltatori. In questa condizione si trova la famiglia Montefusco, l'intero condominio che lì abita, però voglio dire una condizione comune a tutti. La via è, per la precisione, via Giuseppe da Varna 21 a Roma. Migliaia di famiglie, ripeto, abbiamo affrontato questo problema, si trovano delle antenne, dei ripetitori, però ci troviamo anche di fronte ad un contratto regolarmente riconosciuto da Montefusco che è scaduto oramai quasi 3 anni fa. Allora, questa è la descrizione del caso, ne vogliono fare a meno di queste antenne. Ora vediamo che cosa risponde Vodafone. Allora, da Dalt, intanto buongiorno di nuovo, e poi corregga pure nelle parti che lei reputa non corrette il racconto e la ricostruzione di Montefusco. Innanzitutto grazie dottor Galullo per averci invitato e per averci dato la possibilità di rispondere al nostro gentile interlocutore, anche se in trasmissione si parla di abusi e nel caso specifico direi che almeno dalle nostre evidenze non riteniamo di averlo commesso. Ecco, io lo ripeto sempre, gli abusi sono tali quando sono avvertiti da una parte, correttezza deontologica e moralità impongono ad un giornalista serio di ascoltare sempre la controparte, quindi così mi sto comportando con lei, ma così mi comporto con tutti, perché il mondo del giornalismo purtroppo è pieno di cialtroni e ciarlatani. Prego. Assolutamente d'accordo. La ricostruzione è quantomeno corretta. Nel marzo 2004 effettivamente abbiamo ricevuto una comunicazione con la quale il condominio manifestava la volontà di non voler rinnovare il contratto oltre la scadenza. Comunicazione che abbiamo ricevuto, come diceva appunto prima il signor Montefusco, ben 4 anni prima la data di scadenza. Ecco, un tempo necessario per avvertire Vodafone e dirgli: guarda, io non voglio più le tue antenne. Se è così, quindi se voi riconoscete il diritto di questo condominio a non averle più, come vi regolerete? Sì, però devo aggiungere che a quella manifestazione di volontà appunto pronunciata nel 2004 non ci risulta arrivata alcun'altra comunicazione che ci invitasse a rimuovere l'impianto, il che oggettivamente ci ha lasciato intendere che il condominio non intendesse più dar seguito a quella richiesta. Beh, però una richiesta fa fede, cioè sì, se io le dico, ecco. Abbiamo continuato e stiamo attualmente continuando a corrispondere al condominio e il condominio oggettivamente a trattenere le quote del canone di locazione. Va bene, quelle possono essere restituite nel momento in cui eventualmente ci dovesse essere un contenzioso risolto in un senso piuttosto che nell'altro. Sicuramente ha fatto bene a far notare che il condominio in cambio riceve dei soldi regolarmente contrattualizzati. Ecco, però il punto è questo: se il condominio non lo vuole più e ha già manifestato 4 anni fa, 3 anni fa, quel che anzi 6 anni fa, questa volontà, il punto è: voi adempirete a quello che è un desiderio conclamato perché scritto, oppure state perdendo tempo volontariamente? Perché se si tratta di questo, credo che... No, assolutamente, ecco. No, anzi, noi diamo la massima assoluta disponibilità ad incontrare anche da subito il signor Montefusco, ma anche l'amministratore di condominio. Bene. Perché nel momento stesso che loro volessero continuare nella volontà di non rinnovare il contratto di locazione, noi siamo dispostissimi a rimuovere l'impianto, chiaramente nei tempi dovuti, nel senso che, come sa, noi siamo un licenziatario di un servizio pubblico e quindi dobbiamo mettere in campo un'alternativa che non scopra l'area servita dal tuo. Ecco, ma questo qui vuol dire poi perdere tempo, vuol dire avere tutti quanti i cavilli legali che vi permettano? Assolutamente no. Ok, va bene. Allora, no. Io prendo atto di quella che è una disponibilità di intenti ben chiara e ben precisa, cioè se proprio non volete più queste antenne, noi siamo disponibili a incontrarvi e a rimuoverle. Montefusco si accontenta di questa risposta? Le piace? Sì, io comunque al momento attuale ho pure un problema in famiglia, va bene, quello cose mie, io non riesco a vendere l'appartamento. Ecco, però questo io l'ho dato in mano a un'agenzia, chiunque viene non lo vuole. Ecco, ma questo è un aspetto che eventualmente poi può fare, come dire, capo ad un interesse privato, però nel momento in cui, dopo tanto cercare, finalmente siete riusciti a mettervi in contatto con Vodafone, io direi, lei è intenzionato con l'amministratore di condominio a incontrare Vodafone? Certo, come no, benissimo. Per carità. Benissimo, allora io ringrazio Montefusco e ringrazio ovviamente anche Dadalt, responsabile di rete per Vodafone Italia, per queste due regioni, Lazio e Sardegna. Ovviamente lo dico all'uno e lo dico all'altro, continueremo a seguire ovviamente questo caso perché mi piace il fatto che finalmente qualcuno ha risposto, Vodafone ha risposto. Questa puntata di oggi serve anche per incontrare, far incontrare e dialogare le parti. un condominio che dice non le voglio più, Vodafone dice va bene, prendiamo atto, incontriamoci. Allora io dico grazie quindi ai miei ospiti, dico grazie a Pietro Lacorte in regia e a Elisabetta Fusconi in studio, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.